24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Costa pioggia, costo vento. Chi è che bussa al mio convento? Presto aprite sto portone. Sto governo è un gran merda. Ciao Giovanni. E Crozza ieri, il governo si ritira. No, nel senso va in ritiro, volevo dire, in ritiro spirituale, vanno in abbazia. Domenica e lunedì, Letta con tutti i ministri, i sottosegretari per fare squadra, fare spogliatoio. E ha chiarito il premier, e ognuno paga per sé, eh? Non mica qua. Comunque io ieri l'ho twittata così: il chierichetto c'è già, manca il prete, per capire chi celebra la messa, ma il chierichetto lo portano loro, indovinate voi chi è appunto nel governo. Allora, il Parlamento, buongiorno, apriamolo, questo è 24 mattino, c'è Nicole Minetti. C'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Paola Saluzzi, buongiorno. Non manchiamo mai noi leoni del mercoledì, eccoci, sì, eccoli, buongiorno. Qui, un mercoledì da leoni. Allora senatore a vita? Sì, ho lanciato questo. Sì, cerco... Alessandro Milan, senatore a vita. Cerco. Io che volevo anche presidente degli Stati Uniti anni e mezzo. Non sono nato negli Stati Uniti, non ma posso. Ma che ce ne importa? Vabbè, comunque sì, ho cerco una seggiola e quindi le ho provate tutte. L'ultima è Alino Milan, senatore a vita. L'ho lanciata su Twitter. Saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che tanto buongiorno. Tanto su Twitter non c'è, quindi non buongiorno, mi può. Buongiorno direttore. Non mi può. Ma sbarcherai su Twitter? Dovrai fare questo passo, Luca. Prima o poi sì. Prima o poi sì. Dai, su. Aspetto che passi di moda, dai. Oh, grande, quello che va contro in controtendenza. Allora, il governo va a farsi benedire, direttore. A farsi benedire. Si ritira, mi piaceva. Si ritira. Si infeltrisce anche un po'. Cos'è che fa, sì? Si infeltrisce. Vanno in ritiro, i titoli si sprecano, vanno a farsi benedire, pare che l'idea, sapete a chi è venuta? Pare, non lo sospettereste mai, ad Angela Merkel. Pare che lei abbia suggerito a Letta: fai team building, no? Team building, Luca Dini, tu che sei internazionale, cosa dovrebbero fare? Team building, cioè? Team building, ma penso che la Merkel avrebbe fatto più che altro una colonia di quelle con le insegnanti cattive, sai, quelle del mare. Sì, esatto, me la vedo la Merkel che li mette lì tutti. Esatto. Dovrebbero fare squadra. Paola Saluzzi, voi fate team building, ogni tanto a Sky vi radunate... No, ma da oggi faremo esplicita richiesta, anche perché si va in posti dove A, la natura è meravigliosa, B, si mangia splendidamente, io sono un'assidua frequentatrice del Sacro Convento di Assisi e vi posso garantire che il vinello buono e la pasta carne come la preparano lì, non c'è ristorante al mondo, ve lo posso garantire. Vabbè. E poi non siamo così negativi, l'avessimo visto fare ad altri politici avremmo detto, vedi però loro... Per avere spirito di corpo, che cosa fanno? Abbiamo i più bei monasteri del mondo. No, ma perché l'importante è che escano benedetti, insomma. Ecco, vanno all'abbazia che risale al 1085 e si trova tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia. Solo che sapete chi la gestisce? La nipote di Cuccia. Quello di Roma, sono sempre 4-5 persone poi, la nipote di Cuccia, che tra l'altro dice il prezzo è segretissimo, non si saprà, però ognuno pagherà per sé, questa è la cosa che Enrico Letta ha detto, anche perché se leggeste i giornali, se li vedeste, se li aveste di fronte, qua per la storia delle commissioni rischia di cadere il governo, Luca Dini, rischia di cadere un governo perché non vogliono mettere Nitto Palma del PDL alla commissione. Missione giustizia, cioè dopo 3 giorni, ma pare possibile per una roba del genere? Ma sì, pare impossibile, però devo dire, forse sui nomi bisognava trovare una convergenza prima, perché se poi si porta un nome e succede questo, vuol dire che la convergenza non c'era. Sì, ma poi i nomi, li avete visti i presidenti di commissione? Paola, tu li hai visti? Chi è che c'è? Formigoni, Galan, Matteoli, la Russa. Questo è un governo che avrà una vita, lo speriamo tutti, Enrico Letta ha parlato di 18 mesi, sì. non si sta dicendo accettare tutto, per carità, però se è un accordo, è un accordo. Se dobbiamo andare insieme in cordata in montagna, cordata in montagna. Non so come dire, non vi deve andare tutto bene a tutti quanti, attenzione, perché poi anche dall'altra parte chiaramente ci sono molto molto spesso, no? Si alza il naso e ci sono proteste. Vorremmo vedere un'unica squadra che lavori a tirare fuori questo paese dalla fanghiglia, melma, nella quale purtroppo, soprattutto economicamente parlando, ci troviamo. Quindi palla lunga e pedalare, questo è il mio inutile se vuoi, ma suggerimento. Palla lunga e pedalare, ma qua mi sembra che sono divisi un po' su tutto. Ovviamente anche litigano sulle commissioni, alla fine hanno messo i vecchi soliti, dai, su oggi Sergio Rizzo sul Corriere li elenca, appunto Formigoni, Matteoli. Oh, però attenzione, stravince Giuliano Amato, oggi ve la devo, leggete tutti, quando potete, pagina 9 del Corriere, Giuliano Amato con Aldo Cazzullo si toglie di quei sassi dalle scarpe, vabbè, dice contro di me c'è immoralità, mi ricorda il clima della Cambogia quando sparavano a chiunque avesse gli occhiali, ha detto questo, sì, ormai siamo passati dal governo dei professori al Parlamento dei fuoricorso che leggono solo Twitter, vai, mamma mia come rosica, perché, e soprattutto il prelievo forzoso, sentite questa, dice, ma tutti pensano che io una notte volli togliere i soldi dagli italiani. La verità è che non sapevo come fare. A un certo punto Goria propose questo, quindi già dà la colpa a un altro. Ma soprattutto il giorno dopo ci fu un disguido, ci fu un equivoco. Capii che Goria con la testa mi dicesse di sì quando chiesi se Ciampi era d'accordo. In realtà Ciampi non l'aveva neanche sentito. Cioè ci sta dicendo praticamente che ci ha tolto i soldi, Luca Dini, perché Goria il giorno dopo forse aveva un tic e faceva sì sì sì con la testa. E lui ha capito che così Ciampi era d'accordo e ha tolto tutto. E peraltro era un'idea di Goria. Quindi, come dire, aveva taciuto per tanto tempo, poteva. Esatto, la mia storia calpestata. Paola Saluzzi, niente, rosica un po', Giuliana Amato. Ma, che devo dire? Io apprezzo sempre chi a un certo punto comincia a parlare e a raccontare. È vero, uno dice aveva taciuto tanto, poteva continuare a tacere. Lo vedo nel mio inguaribile e talvolta orribile ottimismo come il periodo in cui si devono togliere tutti i sassi da tutte le scarpe, sì. E si deve fare il cambio di armadio, visto che sono reduce da questa operazione traumatica che voi uomini non sapete neanche cosa sia. Sono reduce due giorni fa da questo ripulisti, definiamolo così. Sì. Allora mi piace tanto pensare che il mio paese stia ripulendo, litigando, tirando giù cartacce, tirando giù tutto. Ho capito, ma sta dicendo che è colpa di un altro il prelievo forzoso. Non si fa, però, che l'idea era di Goria e soprattutto che ha visto Goria che diceva sì con la testa, ha capito che Ciampi era stato informato. Ma dai, su, non è credibile, cioè fu frutto di un equivoco, una cosa del genere non si può sostenere. Io però voglio abbandonare la politica, voglio dire un nome, un cognome che oggi farà contenta Paola Saluzzi. Sì. Oliviero Toscani. Oh! Ah, tu non sai il cosa maestro, che cosa ha realizzato? No, il maestro, adesso che ti dico quello che ha detto ieri, no. Luca Dini, ieri era disattenta Paola Saluzzi. Il maestro, senti cosa ha detto riguardo a un tema molto, molto serio, la violenza sulle donne. Sì. Basta rozzetto e tacchi e nessuno vi toccherà più. Ecco. Basta, le donne devono essere più sobrie, diano importanza all'essere più che al sembrare. Le donne non si devono truccare, mettere il rossetto, devono volersi bene per quello che sono. Il problema della violenza sulle donne non dipende dalla mercificazione del corpo femminile, ma della comunicazione, insomma. Se vi truccate, attirate anche i maniaci. Ma che cosa aveva mangiato il maestro? Aveva bevuto grappa di prima mattina? Non lo so. Peggio di un alpino, a parte il nostro alpino che salutiamo, in ritiro a Piacenza, in ritiro, lì sono ampiamente in piazza. Ma stiamo scherzando? E questo ha detto. Dopo aver fotografato donne nude per 30 anni in tutte le salse, Oliviero Toscani, no, è uscito. Sì, ma non ritiro comunque la parola maestro, però aveva bevuto il caffè corretto. Ma si è scatenato un putiferio, Luca Dini, ma come va? Ma Oliviero Toscani. Ma io così, guarda, voglio sperare che sia segno di età, diciamo, perché è una cosa gravissima. Cioè, questo non è un sassolino tolto dalle scarpe, cioè non è un momento di sincerità, è proprio posso dire una stronzata. Sì, no, l'avrei detto io, direttore. Soprattutto ha detto basta guardare le presentatrici o le rappresentanti della politica, serve un ruolo più serio delle donne, la smettano di dover sempre sedurre, altrimenti finiranno per sedurre solo maniaci e violenti. Oh, Saluzzi, ma ti rendi conto di quello che... Vabbè, io ribadisco, uomo geniale che ha avuto un momento, sì, di fuori bolla. Ecco, è uscito dalla bolla e quindi si è caduto da una parte o dall'altra, anche perché rispondo così al maestro Oliviero Toscani: ero ragazzina, 10 anni credo, ma ho sentito dire che se quelle due non fossero andate a chiedere un passaggio ai ragazzi del Circeo, alla fine sarebbe stato meglio se non avessero avuto la gonna corta. Ma c'è sempre, ti ricordi qua quando chiamavamo il procuratore capo? Lì recente chiamavamo il procuratore capo, non so se di Bergamo, che disse: però a quell'ora non si va in giro. Allora mi dispiace. Allora, a meno che non si sia talebanizzato Oliviero Toscani e voglia andare a vivere in Afghanistan e regalare a tutte una burka, hai rubato il titolo di Libero, il talebano Toscani, hai rubato il titolo di... eccolo lì. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, anche perché poi devo dire c'è Vanity Fair, c'è una copertina che questa interesserà stavolta Paola Saluzzi, e poi ci sono delle novità, ci sono delle novità, cara Paola, ci sono delle novità. 24 mattino. Quei ragazzi branche ci ho capiato a Valpeg, me il caffè quella macchinetta in officina, basta che smettiti per scendere la gnagneda stridula e la ex puletica, dai, venite qua. Il Movimento 5 Stelle non riescono a vivere a Roma con 2500 euro? Io vivo a Roma, prendo uno stipendio di 800 euro per 9 mesi l'anno, pago un affitto di 405 euro 12 mesi l'anno e purtroppo sopravvivo. Se ce la faccio io, ce la possono fare benissimo anche quelli del Movimento 5 Stelle. Dunque, sentire questi stipendi della regione non mi indigno, ma rimango proprio basita. Pensando a mio marito, che con una pensione inferiore a 1000 euro mensili è arrivata una lettera dell'INPS dicendo che gli hanno dato in più l'anno scorso 47 euro di tredicesima e gliele scontano in 36 rate da 1 e rotti qualcosa. Grazie, sono Anita da Milano. Buongiorno Megan, il pesce puzza sempre dalla testa, per cui come sorprendersi se impiegati statali o altri marinano l'ufficio quando ci sono senatori che fanno di peggio? Ho lavorato tutta la vita, sia io che mio marito. Abbiamo mandato avanti la nostra attività come meglio potevamo. Poi è crollato tutto. E ora forse ci pignorano anche la casa. È importante che il governo, oltre che all'IMU, proibisca anche il pignoramento della prima casa. Io ho 65 anni, mio marito 75. Se succede questo noi ci ammazziamo, Milan. Il governo deve evitare che portino via noi disgraziati che ci abbiamo solo la casa, che ce la portino via, Milan. E insomma, raccolgo anche lo sfogo legittimo di questa signora, sintomi anche della crisi, nella nostra segreteria telefonica. Allora siamo con Paola Saluzzi, siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Allora Paola, oggi sai chi ti guarda sulla prima di Vanity Fair, dalla prima di Vanity Fair? Tanto... Sono quasi già in edicola, in pigiama, ma sono in edicola. E tra l'altro fa anche un invito, perché dico l'amore che mi manca, insomma è single e chiede... Leonardo DiCaprio, che ne dici? Una cosina così. Che ne dici? Ottimo e abbondante. Il titolo è Vorreste un uomo come me? Te lo chiede così? non lo so. Buttalo via. Vabbè, è il grande Gatsby. Ma cos'è sta mania del grande Gatsby? Cioè, manco... Cioè, Luca, tutti che parlano di sto grande Gatsby, cioè, ho scoperto... Ma io non l'ho visto, pare sia splendido. Comunque, diciamo che se c'era uno che lo poteva fare era proprio lui. Non è una parte per tutti, insomma. Dopo Robert Redford ci voleva... Di capo, ci volevamo così. Che ora invita Paola Saluzzi anche, no? Vorreste un uomo come me, eh? Così. Senti, ma cosa hai cambiato, Luca? Hai cambiato tutto. Intanto ci devi dire perché non c'è più Gad Lerner. Cos'è, l'hai buttato fuori, no? Mamma mia, no, sai, semplicemente le cose cambiano. Le cose cambiano. Assolutamente. E cambia Vanity Fair, tutto nuovo. C'è Michele Serra, c'è Gramellini, poi c'è tutta una nuova grafica. Ma che vi siete? Volevi cambiare tutto? Volevi fare il cambio di stagione come volevo fare il cambio d'armadio. L'armadio come la Saluzzi. Io non ho l'armadio, quindi cambio il giornale. Tutto rinnovato. Cos'è la cosa più rinnovata che avete fatto? Mi piace molto, devo dire, una rubrica di nuova di Pino Corrias che si chiama Todo Cambia, dove racconta le storie di il momento che ha cambiato la vita a un lettore, a una persona normale. Insomma, le storie semplici. Cioè, io sono ancora un po' sotto shock per quell'ultimo messaggio in segreteria telefonica. Quindi, lo so, quella signora. No, lo so, molto molto molto accurato, questa storia dell'impegno. Anch'io, guarda, ieri ci ho pensato due giorni, perché di due giorni fa ci arrivano tantissimi messaggi se metterlo o no, perché poi buttare lì una storia, no, in 10 secondi sembra il tono anche un po' irrispettoso. Però, ma si possono continuare a seguire queste storie? Si può avere come no? contatto come con no? queste persone? Certo, può... come no? Come no? Assolutamente. Cercare di capire, assolutamente, come dare una mano. Ma il tema dell'impignorabilità è uno dei temi che si sta discutendo. Alcuni lo volevano mettere dell'impignorabilità della prima casa. Prima casa, c'è da dire che non, io non lo so, cioè sono laico in questo, è giusta o non è giusta questa cosa? L'idea di rendere impignorabile la prima casa, secondo te, Luca, è giusta in assoluto? Non lo so. Forse dipende dalle condizioni, però insomma io ho sentito un paio di storie di questo tipo e sono veramente... Cioè, purtroppo spesso è una guerra tra poveri, debitori, creditori, però insomma si è parlato di assegno di cittadinanza, di cose, cioè, ci sono situazioni drammatiche. Situazioni drammatiche anche perché, come diceva la signora, lei ha 65 anni, il marito 75, mi pare di aver capito insomma che è un po' franata tutta l'attività e che dire, se perdono la prima casa che fanno? No, la casa non si tocca, il mio personale punto di vista è che la casa non si tocca. Comunque sì, comunque c'è modo. Le cose vanno studiate su singoli casi, non si può dare a tutti la stessa medicina. Certo. No? C'è modo di seguirle, assolutamente lo faremo. Io vi devo ringraziare, vi devo salutare. Allora, Luca Dini, trovate il nuovo numero di Vanity Fair, nuovo in tutti i sensi, rinnovato in edicola con Leonardo DiCaprio che fa l'occhiolino a Paola Saluzzi. E che ringrazio e ci ritroviamo la prossima settimana. Allora diamo il giornale radio. Io voglio soltanto ricordare che in quei due anni, 2002-2003, il mio gruppo ebbe a pagare all'erario 567 milioni di euro, quindi credo che io come fondatore di quel gruppo avrei diritto a una grande medaglia d'oro e non a una condanna a 4 anni. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, allora, pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. Vi ricordo che oggi parleremo di politica, attualità politica, avremo ospiti due direttori, Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, Giuliano Ferrara del Foglio, questo dalle 8:15, anche perché leggere i giornali. E avrei tantissime cose oggi da leggere dai giornali, da segnalare, riuscirò a segnalarle come al solito il 50-55%, non di più. Insomma, sembra che addirittura ci sia la crisi di governo a un passo sulla questione delle commissioni. Comunque, andiamo appunto a leggere i giornali, non perdiamo tempo e vediamo cosa ci propongono. Mercoledì 8 maggio, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre sull'effetto tassi, borse in rally, questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera invece quello che è successo ieri a Genova, vi stiamo aggiornando il giornale radio, cioè una nave che ha urtato la torre nel porto, ci sono almeno 3 morti ma diversi dispersi. Notte di terrore nel porto di Genova, così il Corriere della Sera, è già stato proclamato lutto cittadino oggi a Genova. La politica invece per Repubblica, la battaglia sulla giustizia, Il Fatto Quotidiano, giustizia no a Nitto Palma, Berlusconi o lui o salta il governo. La Stampa, PD-PDL, tensione sulla giustizia, L'Unità, giustizia scontro PD-PDL. Il Messaggero, bocciato Palma, l'ira del PDL. Il Giornale, governo già a rischio. Libero, Letta va a farsi benedire. Qui si gioca anche molto sul ritiro in abbazia del weekend. Mentre Avvenire, Somalia, il mondo si sveglia. Il Manifesto invece titola su L'America e boom di immigrati in Germania, il fenomeno dell'immigrazione in Germania. Ma voglio partire da un personaggio che oggi dovete leggere assolutamente sul Corriere della Sera, Giuliano Amato, dopo tanto silenzio fa un lungo colloquio con Aldo Cazzullo, imprescindibile. Amato, la mia storia calpestata, i politici ora si formano su Twitter. Dal governo dei professori siamo al Parlamento dei fuoricorso. Un Amato che si toglie dei sassoloni dalle scarpe e racconta anche una storia incredibile, una versione nuova sul famoso prelievo forzoso, che davvero mi lascia esterrefatto nel leggerla. Ma andiamo con calma. Intanto un Giuliano Amato che dice: io ho qualcosa da dire, sono giorni di grande amarezza per me, credo non solo per me. Purtroppo su questo pesa l'attuale condizione di un ceto politico le cui letture non vanno molto oltre Twitter, e se su Twitter legge 50 commenti negativi su di lei ne desume che il popolo la vede male. Un simile clima mi ricorda quando Pol Pot aveva ordinato di sparare a chiunque dagli occhiali che portava si capisse che era un laureato. Ecco, Giuliano Amato già paragona quel clima lì della Cambogia, un paragone soft, si potrebbe dire. Poi parla di Letta, un giovane pieno di qualità che somiglia o no al pediatra che viene a tranquillizzarti sui tuoi figli. Io lo vedo più come il papà che si tranquillizza all'arrivo del pediatra, è uno molto attento agli altri, mi piacciono le persone che ascoltano tanto e poi si assumono responsabilità. Io ho sempre fatto così e vedo in lui la stessa attitudine. Poi Giuliano Amato parla a lungo e si sfoga sulla sua situazione. Considero quel che mi è accaduto qualcosa che ha anche profili di immoralità, in particolare da parte di diffamatori di professione che contribuiscono ad alimentare con ripetute falsità il clima che c'è stato in alcuni ambiti nei miei confronti. Non faccio i nomi, se ne occupa mia figlia che fa l'avvocato, come dire, querele. Se lei va su Google e digita Giuliano Amato, tra i primi della schermata compare Amato Massone. Sono andato ad aprirlo, ma era un altro Amato, ma sotto il mio nome. Il 31.000 euro di pensione, un falso clamoroso, è una cifra lorda, comprensiva del vitalizio che verso in beneficenza son forse l'unico ex parlamentare che non lo incassa. E poi eccolo qui, io quando sono arrivato al racconto che fa Aldo Cazzullo sulla famigerata storia del prelievo forzoso, sono sobbalzato, perché Giuliano Amato lo descrive così. Il prelievo forzoso dei conti bancari nel 92. Sembra che io una bella notte, per provare il gusto del potere, lo voglia esercitare sottraendo agli italiani una parte dei loro risparmi. Io dovetti trovare in 48 ore 30.000 miliardi di lire. Il governatore Ciampi mi avvertì che era essenziale, perché i titoli pubblici continuassero a essere comprati, ridurre la falla emorragica che c'era nei nostri conti. Pensai un'intera notte a cercare alternative. Tutto l'apparato dei ministeri non andava oltre la proposta di aumentare l'IRPEF. Io dissi: queste cose le chiedete alla Thatcher, ma non a me. Fu a quel punto che Goria, ministro delle finanze, mi fece quella proposta, quindi dà la colpa a uno che non c'è più e non può smentire. Quindi fu Goria a fare la proposta e io risposi: Gianni, lavoraci e dimmi domattina cosa ne pensa Ciampi. E qui arriviamo al clamoroso, ascoltatori. Il mattino dopo ci fu un equivoco, racconta Amato, un equivoco. capii che Goria con la testa mi dicesse di sì quando chiesi se Ciampi era d'accordo. In realtà Ciampi non l'aveva neanche sentito e la misura passò. Non so se avete capito, cari italiani, sta dicendo che l'idea fu di Goria e soprattutto il giorno dopo, dicendogli chiedi a Ciampi cosa ne pensa, il giorno dopo ci fu un equivoco. Guardai Goria che faceva sì con la testa e io capii che aveva parlato con Ciampi che era d'accordo, ma era un equivoco e passò il prelievo forzoso. Ora, credere, insomma, il prelievo forzoso a sua insaputa, il prelievo forzoso nato come un equivoco. Ecco, cari italiani, 20 anni dopo la storia è 21 anni dopo la storia è raccontata così sul prelievo forzoso da parte di Giuliano Amato, che oggi si libera di vari sassoloni dalle scarpe. Prima però della pubblicità, questa notizia di cronaca che mi ha sconvolto. Si parla tanto di violenze sulle donne, di omicidi nei confronti delle donne. Ebbene, uno, un dramma vero, un dramma da affrontare, legge questa notizia che è riportata da tutti i giornali e cosa deve pensare? Strangolò la compagna un anno fa, è stato scarcerato, succede a Reggio Emilia. Perché? Sentite la spiegazione del presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Sono scaduti i termini di custodia cautelare preventiva. Si è trattato di un banale disguido. Un banale disguido. La procura aveva chiesto giudizio immediato, ma la richiesta si è infrattata nella massa dei fascicoli. Così il presidente del Tribunale di Reggio Emilia spiega questa cosa incredibile, una carta che si è infrattata nei fascicoli, un banale disguido, e uno che ha strangolato la fidanzata un anno fa è già libero. Vogliamo tutti pensare che porranno rimedio a questa cosa, in qualche modo ci dovrà essere un rimedio da porre a questa cosa. Comunque, strangolò la compagna, scarcerato, così sul Secolo XIX, così il Messaggero strangolò la compagna, è già libero per un disguido. Banale, ha aggiunto il presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Libero un anno senza udienza, l'assassino esce di cella. Nell'aprile 2012 Ivan Forte strangolò la fidanzata a Reggio Emilia, fuori per decorrenza dei termini di custodia cautelare. E anche la stampa uccise e bruciò la compagna un anno dopo, è già libero. Il fascicolo dimenticato nella cancelleria del GIP. Anzi, usando le parole del presidente del Tribunale, un banale disguido, una carta infrattata nei fascicoli. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:36 minuti, beh, erano proprio due notizie prima da mani sul volante, quelle dalle quali sono voluto partire, sia Amato che racconta il prelievo forzoso, idea di Goria, e poi io mi vedo la scena il giorno dopo. Allora, ne hai parlato con Ciampi? E Goria, che non so, fa su e giù con la testa, magari c'aveva una mosca che lo disturbava in quel momento, e Amato interpreta questo su e giù con la testa come dire sì, Ciampi è d'accordo, e passa al prelievo forzoso, un equivoco, così. E poi, insomma, questa vicenda di Reggio Emilia è davvero, davvero incredibile, una carta infrattata nei fascicoli, un omicida, uno che ha strangolato la fidanzata un anno fa, è già libero. E vabbè, parliamo di politica, dove non è che va molto meglio, perché si litiga pesantemente, soprattutto per la nomina alla presidenza della Commissione Giustizia, perché il Popolo della Libertà vuole mettere l'ex ministro Francesco Nitto Palma, il PD lo ha impallinato e ora Berlusconi, racconta il giornale, minaccia così il governo non supera l'estate. La rabbia del Cavaliere tira una pessima aria, basta con questi affronti, anche sul Corriere della Sera Paola Di Caro. Sembra un po' incredibile che si possa litigare a tal punto e far cadere il governo per le presidenze delle commissioni parlamentari, ma tant'è, insomma, il governo delle larghe intese litiga su questo. Bene non l'ha presa, racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera, raccontando la reazione di Berlusconi, anzi per niente. Chi lo ha sentito lo descrive come infuriato e prostrato, perché la mancata elezione a presidente della Commissione Giustizia di Nitto Palma, suo fedelissimo, è l'ennesimo segnale che questi signori mandano contro di me. Altro che clima di pacificazione, qui non si rispettano nemmeno i patti sottoscritti, ma noi non molliamo. Nitto Palma resta il nostro candidato. Oggi si rivota, questo il Berlusconi pensiero, che secondo il giornale addirittura è più duro, cioè così non si supera l'estate, questo è il titolo di pagina 3, Berlusconi vede nero, l'ex premier dopo lo stop a Palma, abbiamo votato Ferranti, abbiamo votato Epifani, cioè due del PD a presidenza di commissioni, senza battere ciglio, se la sinistra ha un problema con la base non ci riguarda. Nitto Palma, che è l'oggetto della discordia, fa qualche dichiarazione. La troviamo un'intervista su Repubblica, qualche battuta anche sul Corriere della Sera, Dino Martirano a pagina 2. Quando un cronista lo fulmina e è in attesa di prendere l'ascensore, lei è ancora il candidato del PDL? Lui come una sfinge risponde: io ho preso i voti che dovevo prendere, anzi uno di più, non ho preso quelli dell'altro schieramento, capisco il voto segreto, ci sta tutto. Oggi, cioè domani, dice, cioè oggi, la mia candidatura sarà decisa dal partito che ha stretto un accordo politico. Poi fa vedere ai giornalisti un SMS che arriva da sua figlia: ecco, guardate, mia figlia chiede perché ce l'hanno con te? Chi glielo spiega infatti a mia figlia? Perché? Cosa gli dico io a mia figlia? Perché ce l'hanno con me? E vabbè, insomma, diciamo che un Nitto Palma che tiene duro. Giustizia, scoppia il caso Nitto Palma, è il titolo anche del Sole 24 Ore a pagina 17. Forte tensione nella maggioranza dopo due fumate nere sull'ex ministro PDL, oggi si rivota. Mentre ce l'hanno fatta i nomi nuovi della politica, dico questo aggettivo perché Sergio Rizzo sul Corriere della Sera a pagina 5 fa tutto un articolo proprio incentrato su queste novità che tornano. Invece ce l'hanno fatta come presidente di commissione Giancarlo Galan, Ignazio La Russa, Fabrizio Cicchitto, Anna Finocchiaro, Nicola La Torre, Francesco Boccia, Galan, forse l'ho già detto, Cesare Damiani, Maurizio Sacconi, Guglielmo Epifani, alcuni dei presidenti di commissione che sono stati eletti, e Altero Matteoli, Sergio Rizzo sul Corriere, Formigoni, anche Formigoni, da Formigoni alla Torre, l'eterno ritorno dei soliti noti. Non ha dovuto nemmeno svuotare i cassetti Antonio Azzollini, per esempio, da Molfetta, città pugliese di cui era sindaco, senatore del popolo. Senza fare una piega, i suoi colleghi di destra e sinistra l'hanno rieletto presidente. Se cercavate un segno tangibile della rivoluzione che ha investito un Parlamento dove sono entrate 612 persone che finora l'avevano visto solo in cartolina con un tasso di ricambio del 64,5%, eccovi serviti. Ne volete altri? La presidente della Commissione Lavori Pubblici, ad Altero Matteoli. Oppure nulla contro la qualità di Maurizio Sacconi, anche lui, presidenza di commissione. Intendiamoci, qui non sono in discussione l'esperienza, le competenze dei singoli, scrive Sergio Rizzo. Quelle di Sacconi, per restare soltanto all'ultimo dei casi citati, sono assolutamente incontestabili, ma se le nomine dei vertici di commissione dovevano essere occasione per rinnovare i metodi delle scelte politiche, oltre che gli uomini, quella si è persa alla grande. Han prevalso le solite vecchie logiche: premiare i più fedeli, risarcire i delusi, onorare qualche promessa fatta quando si pensava a un diverso risultato elettorale. Ancora, ecco, Damiano, La Finocchiaro, Elio Vito, ex radicale PDLino, ministro del quarto governo Berlusconi, eletto nel 92, si può lamentare, anche lui presidente della commissione difesa, Giancarlo Galana ai beni culturali, e così via, Ignazio La Russa e via, insomma i soliti noti, scrive Sergio Rizzo sul Corriere. In tutto questo clima di tensione, tanto che Berlusconi racconta Repubblica con Carmelo Lopapa in un retroscena pagina 4, ora sarebbe pronta ad affossare la convenzione, la famosa convenzione per le riforme, l'organismo di cui si è più parlato e non è manco mai nato e forse manco mai nascerà. Quello che dovrebbe riformare la Costituzione, diminuire i parlamentari, eccetera. Chissà se nascerà mai. Secondo Repubblica è un po' la mossa politica di rivalsa di Berlusconi che ora affonda la convenzione. Intanto, in tutto questo, il governo si può dire, perché sono i titoli di giornali, per esempio Libero la mette così, va a farsi benedire, nel senso vero e proprio, nel senso che Enrico Letta ieri ha twittato di questo ritiro per fare team building, per fare squadra, per fare spogliatoio. Domenica e lunedì tutti all'abbazia, che risale al 1085 in Toscana, tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia, un'abbazia straordinaria, così almeno racconta il Corriere della Sera, che va a intervistare chi la gestisce, cioè la dottoressa Cuccia, nipote dell'ex presidente di Mediobanca Enrico Cuccia, scomparso nel 2010, Marilisa Cuccia. Qui un posto dove anche le pietre pensano, in questo luogo di infinita riflessione. Ci sono le foto, effettivamente è straordinaria questa abbazia di Spineto, almeno dalle foto. 90 camere. Quanto costa? Il prezzo è segretissimo. Tra l'altro Letta ha detto che ognuno si dovrà pagare il conto. Il prezzo è segretissimo. Oh, cari ministri, sottosegretari, tremate. Non è che Letta vi fa piazzare un bel conto da, che ne so, 3-4 mila euro per due giorni? 5 mila euro per due giorni? Non lo so quanto è il conto, però ognuno pagherà per sé. Sta di fatto che c'è anche la scaramanzia che entra. Intanto Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, come racconta i vari giornali, dice che l'idea del ritiro, sapete chi è venuta? L'idea di questo team building pare sia venuta da Angela Merkel. Voi dite, che c'entra? Beh, Angela Merkel di recente ha incontrato Enrico Letta, pare che lei abbia lanciato ad Enrico Letta questa idea: ritrovati con il tuo governo per discutere, per fare spogliatoio. E allora pare che lei, esperta tra l'altro di grandi coalizioni, come racconta il Corriere, leader di un paese dove gli obiettivi nazionali vengono sempre di solito prima dei gruppi parlamentari dei singoli partiti, abbia lanciato questa idea a Enrico Letta: fai team building. E allora tutti lì. Libero fa sapere che il governo va a farsi benedire, ma i ritiri portano male, come scrive Mario Giordano. Il Prodi già portò il centro-sinistra prima a Gargonza, poi alla Reggia di Caserta e poi dopo qualche giorno cadde. Così anche il Fatto Quotidiano titola: portano Iella, Prodi andò alla Reggia di Caserta e poi boom, il governo cadde. Vabbè, no, non bisogna essere superstiziosi, perché essere superstiziosi è notorio porta sfiga, e quindi non bisogna pensarla così. Sta di fatto che ci sarà questo weekend per fare spogliatoio domenica e lunedì. Eccolo qui, Fabrizio D'Esposito sul Fatto, non lo trovavo. Il governo Letta va in convento, Iella assicurata. Vabbè ragazzi, però non è che si può anche vivere con questa prospettiva di superstizione. In tutto questo la tensione sociale si sente, il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, dice: attenzione, la crisi, la povertà portano alla violenza. È lo stesso allarme che ha lanciato ieri Beppe Grillo, da cui ripartiamo dopo il traffico. E allora l'allarme del Viminale è questo: crisi e povertà portano alla violenza. Anche ieri c'è stato un momento di scontri quando il ministro Carrozza all'istruzione è andato a Napoli per incontrare i rettori degli Atenei degli studenti hanno contestato, ci sono stati scontri con la polizia. Grillo: c'è un clima torbido, temo fatti gravi. Questo è il senso del suo post di ieri sul sito. Tra l'altro Repubblica intervista Manlio Di Stefano, uno dei deputati del Movimento 5 Stelle, 34 anni, viene intervistato da Annalisa Cuzzocrea, dice: quello che intende Grillo è che ci hanno accerchiato per non farci ottenere nulla, ma che contro di loro sta montando la tensione sociale. Beppe certo non evoca le stragi, la sua paura è l'arroccamento della casta. Tra l'altro un Beppe Grillo che domani sarà a Roma, come raccontano i giornali, per gestire anche questa vicenda della diaria, la parte di diaria che non viene spesa, deve essere o no restituita dai deputati del Movimento 5 Stelle, deputati e senatori. Sapete che c'è un dibattito all'interno del movimento. Il movimento pare sia orientato a maggioranza a dire ognuno scelga volontariamente, ma secondo il Secolo XIX, questa è la minaccia di Grillo, farò i nomi di chi si tiene la diaria. Domani sarà a Palazzo, molto probabilmente nella sala dei gruppi a Montecitorio. Sulla diaria dovessero continuare i malumori, racconta Ilario Lombardo sul Secolo, Beppe Grillo avrebbe intenzione di proporre a chi non vuol rinunciare a una fetta di rimborsi di fare il nome sul web, di dirlo, anche se questo atto di coraggio rischia di trasformarsi in dileggio e gogna. Sta di fatto che vedremo domani come gestirà questa vicenda. C'è ancora tanta polemica riguardo a Giulio Andreotti. Ieri funerale di Giulio Andreotti. La polemica che oggi vive ancora sui giornali è quella legata a a Umberto Ambrosoli. Umberto Ambrosoli, il figlio di Giorgio Ambrosoli, il liquidatore del Banco Ambrosiano, ucciso da un sicario mandato da Michele Sindona, per il quale Ambrosoli, Andreotti, disse quella celebre frase, no? Riguardo il padre di Ambrosoli, diciamo che il romanesco se l'è andata un po' a cercare. Una frase che poi Andreotti, per la quale Andreotti chiese scusa successivamente, ma quella frase è lì, e tanto che ieri Umberto Ambrosoli, quando c'è stato il minuto di commemorazione al Consiglio regionale della Lombardia, ha deciso di uscire dall'aula, creando ovviamente un dibattito. Oggi fa un paio di interviste, una a Repubblica, una alla Stampa. A Repubblica, intervistato da Oriana Liso, Umberto Ambrosoli dice: disse che mio padre se l'era cercata, ecco perché non potevo omaggiarlo. Le istituzioni sono fatte di persone, nonostante tutto il rispetto dovuto davanti alla morte di una persona, nonostante sia il primo a ritenere giusta la commemorazione di un uomo delle istituzioni, non posso dimenticare cosa ha rappresentato Andreotti nella storia di mio padre Giorgio. Tra l'altro ricorda il libro che ho scritto, Qualunque cosa succeda, per raccontare anche chi è stato Giulio Andreotti, tutte le risposte alla domanda chi era Giulio Andreotti per me si potranno trovare e cercare lì. Siamo un paese pronto a giustificare tutto, dice ancora Ambrosoli, questo conduce all'immobilismo, all'incapacità di cambiare. Porto rispetto per la morte di una persona, ma non dimentico ciò che ha rappresentato in quella vicenda. Mia madre mi ha detto: io condivido la tua scelta. Viene intervistato anche dalla Stampa: ho fatto un gesto di coscienza, ma non voglio dividere. Tra l'altro c'è il buongiorno di Massimo Gramellini, che voglio leggere, anche se usa la parola che più odio al mondo, e cioè l'aggettivo divisivo. Quando io sento la parola divisivo vorrei spaccare la TV. Quando leggo una parola divisivo sul giornale voglio stracciare il giornale. Però in questo caso il buongiorno di Gramellini è bello, e nonostante questo peccato veniale di divisivo, allora lo leggo. Se l'è andata a cercare, così il buongiorno di Massimo Gramellini oggi in prima sulla Stampa. Mentre il Consiglio regionale della Lombardia rendeva omaggio al fantasma di Andreotti, il capo dell'opposizione Umberto Ambrosoli è uscito dall'aula. Suo padre, l'avvocato Giorgio, fu ammazzato sotto casa in una notte di luglio per ordine del banchiere andreottiano Sindona. Aveva scoperto che costui era riciclatore di denaro mafioso. 30 anni dopo Andreotti commentò: se l'è andata a cercare. Il perdono è una cosa seria, è fatto della stessa sostanza del dolore, si nutre di accettazione e memoria, non di ipocrisie e rimozioni forzate. La morte livella, ma non cancella. Con buona pace del Quotidiano dei Vescovi, che ieri titolava «Ora Andreotti è solo luce». Per usare una parola alla moda, Andreotti era, eccolo qui, divisivo. Lo era da vivo, lo rimane da morto. Purtroppo anche Ambrosoli, perché esistono due Italie da sempre. Non è che una sia buona e l'altra cattiva, una di destra e l'altra di sinistra. Semplicemente c'è un'Italia cinica, accomodante, più che immorale, amorale, che non vuole cambiare il mondo ma usarlo. E un'altra Italia, giusta e severa, più che moralista, morale, che cerca di non lasciarsi cambiare e usare dal mondo. Due Italie destinate a non comprendersi mai. Un esponente lombarda del partito di Berlusconi ha detto che il figlio di Ambrosoli ha mancato di rispetto al morto. Non ricorda, o forse non sa, che anche Andreotti aveva mancato di rispetto a un morto. Quell'uscita dall'aula se l'è andata a cercare. Chiudo con una notizia di cronaca che ho trovato sul Quotidiano Nazionale Il Giorno. Incredibile. Priebke, processo con beffa finale. Succede questo. La comunità ebraica si è ritenuta diffamata, cioè Priebke si è ritenuto diffamato da un articolo scritto da un giornalista, e dalla comunità ebraica l'ha denunciata perché lo definirono boia delle fosse ardeatine. Priebke ha perso le tre cause, ma incredibilmente lo Stato, siccome Priebke non ha soldi, chiede che la comunità ebraica paghi le spese processuali. Cioè la comunità ebraica ha vinto la causa contro Priebke, ma processo con beffa finale. Priebke non ha nulla, è insolvente, e quindi paghi la comunità ebraica, cioè coloro che hanno vinto il processo. Succede anche questo in Italia, lo trovate sul Giorno. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io non voglio credere che un paese che ha bisogno di risollevarsi, un bisogno estremo di risollevarsi, un paese in cui l'economia, il lavoro sono certamente le due priorità su cui concentrarsi. Ecco, non voglio credere che un paese del genere possa vedere un governo cadere per le beghe sulle poltrone da occupare nelle commissioni parlamentari. Però così pare, almeno i litigi ci sono, a giudicare almeno dalle minacce che leggiamo anche sui giornali, dopo che il candidato del PDL alla Commissione Giustizia, Francesco Nitto Palma, ex ministro, è stato impallinato dai voti del PD. Oggi pomeriggio ci sarà una prova del 9, perché alle 15 si rivota, il candidato del PDL rimane Nitto Palma, Berlusconi pare molto arrabbiato, da alcuni retroscena dai giornali, dal Corriere, dal Giornale, si dice di un Berlusconi pronto a dire così non dura fino a quest'estate. Sarà così? Non ci voglio credere, ma vogliamo partire da qui per discutere il destino del governo Letta. Lo facciamo con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Saluto anche Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Ben ritrovato e benvenuto. Buongiorno. Allora, Ferrara, lei oggi se lo chiede sul Foglio, tra l'altro lanciando anche un dibattito e un contributo di idee, come dire, servono 3 anni di vere intese, non questi pasticci litigiosi, ma può davvero cadere su beghe che paiono un po' di retroguardia, quello delle commissioni parlamentari, un governo? Beh, adesso insomma fa fino dire che cade sulle poltrone. Le commissioni parlamentari sono da attribuire, bisogna votare, c'è una maggioranza, si fa un accordo politico, va rispettato. È un problema di organizzazione del lavoro del Parlamento, non è un problema solo di, diciamo, di chiappette morbide su poltrone di pelle. Quindi andiamo alla sostanza del problema. Il PD è fuori controllo, non è orientabile da una leadership, perché non ha più una leadership, non ha una vera e propria linea, si è, come dire, piegato allo stato di necessità segnalato autorevolmente da Napolitano, ha fatto questo governo. Quindi con, in modo molto pretestuoso, poi su un ministro della giustizia che non era neanche stato valutato ha lasciato che i rinfocolatori del partito dei magistrati che sono dentro il PD mettessero i bastoni tra le ruote alla sua elezione a Presidente della Commissione di Giustizia. Non so come andrà a finire, ma il problema, come lei ha giustamente accennato, soprattutto volontaristicamente dicendo non voglio credere che, è proprio quello che lei implica, se questo governo è nato solo appiccicato con lo sputo per una ragione puramente di numeri, perché non c'era altro da fare se si voleva evitare lo scioglimento del Parlamento, e sotto la spinta generosa, diciamo, di Napolitano, che crede in questo modo di realizzare una buona politica per il Paese, per risolvere i suoi problemi, ma se tutto questo appunto avviene con la colla, se è una pecetta, e vabbè, allora le pecette volano via così, con un soffio, con un alito. Si volano alla prima occasione. Se invece, adesso questi vanno a fare spogliatoio in una bazzia, mi sento male, ma insomma, se trovano un modo, Letta da una parte e Berlusconi, i capi del PDL, se pensano che sia utile al Paese e anche a loro stessi, devo dire, come classe dirigente, realizzare delle cose in un arco di tempo possibile invece che continuare a litigare e andare a nuove elezioni, e se il PD si dà una leadership seria e trovano un accordo politico per riformare la Costituzione, per riformare l'economia, insomma un accordo politico vero, bene. Se no, in realtà niente. Le distanze programmatiche non sono così terribili, lo sappiamo tutti, c'è una cultura, non un pensiero unico, ma c'è una cultura convergente sulle cose da fare per il Paese. Se invece vogliono continuare a litigare, litigano, che le devo dire? E si cade. Insomma, Padellaro dice Ferrara è un governo un po' raccogliticcio, e quindi come tutte le cose tenute in piedi così, anche per la mancanza di leadership del PD, possono volare via anche al primo alito e al primo soffio. Padellaro, fa bene il PD, lei lo capisce, l'opposizione su un nome, perché poi sugli altri hanno trovato accordo, il PDL dicono noi alcuni di loro li abbiamo votati, Epifani, li abbiamo dato alla Commissione, Damiano, cioè non ho capito che Palma puzza? Beh, effettivamente detto così sembra piuttosto ridicola la situazione. Diciamo che il Partito Democratico ha ingoiato parecchi rospi, a questo punto non si vede perché non debba ingoiare anche Nitto Palma, questo campione del diritto anche alla Commissione Giustizia. Il problema è un altro ed è un po' quello che diceva Ferrara. Napolitano ha imposto un'alleanza innaturale tra due forze che si sono, non solo si sono combattute per 20 anni, secondo me fino a un certo punto, perché poi questa guerra sanguinosa, io devo dire la verità, non l'ho vista, abbiamo visto degli episodi, ma comunque lasciamo perdere il passato. Il Partito Democratico questa alleanza l'ha subita non tanto al vertice, ma anche al vertice, vedi Bersani che voleva fare tutt'altra cosa, infatti è stato fatto fuori, ma diciamo che la base e una parte del gruppo parlamentare vede questa alleanza come una cosa innaturale e quindi scalcia e quindi non l'accetta, e quindi questa ipotesi di un po' comica, di pacificazione, non può reggere, perché da una parte c'è un partito, sono d'accordo, sfasciato, che non sa bene cosa deve fare, una cosa la sa e che non vuole subire i diktat di Berlusconi, dall'altra parte c'è Berlusconi che sta facendo il suo mestiere e lo sta facendo, devo dire, anche bene, perché sta imponendo tutte le sue condizioni, pur essendo un azionista di minoranza, è l'azionista di riferimento, e Berlusconi ha capito una cosa fondamentale, che o questo governo va avanti, ma sarà molto difficile, o sarà un governo elettorale, e quindi impone a questo governo tutta una serie di cose, sì, la sua agenda, in modo, diciamo, vedi l'IMU, in modo che se si dovesse andare alle elezioni a ottobre, ipotesi non certo da scartare dopo quello che sta succedendo, lui potrà dire ai suoi elettori: vedete, io ce l'ho messa tutta, avevo addirittura imposto l'abolizione dell'IVU sulla prima casa, quindi, e il Partito Democratico, che è un partito finito, che non ha voluto. Lei è d'accordo sul fatto che passa molto per la forza, come ha detto Ferrara, del Partito Democratico, cioè un partito che riesca a ricostituirsi con una leadership forte, passa molto da qui. Mi sembra assolutamente sì, ma il problema è che la domanda è questa: ma potrà il Partito Democratico ricostituirsi? L'impressione è che il Partito Democratico va verso un regolamento di conti, non adesso, certamente non nell'assemblea di sabato, ma anche nell'assemblea di sabato, che probabilmente lo porterà, se non a una scissione, a una separazione, diciamo, guerreggiata di varie correnti. Questo, Ferrara, lei la vede così? Cioè un'idea che invece che ricompattarsi il PD rischi di sfaldarsi del tutto? Sì, prima di tutto io lo vedo come un problema bilaterale. Anche Berlusconi deve, come dire, certo è molto difficile governare le cose con un partito di rimpettaio che non ha un pieno controllo di sé dei propri gruppi parlamentari. Ho visto che Giuliano Amato, che non è del tutto estraneo alla storia della sinistra italiana, oggi dice che siamo passati dal governo dei professori, sì, al parlamento degli studenti fuori corso. Che leggono Twitter. Non proprio molto riverente verso il Parlamento, ma d'altra parte si vede che, insomma, ha colto qualche elemento di degenerazione. Anche Berlusconi, sebbene sia difficile trattare con un partito in crisi come il PD, deve poi decidere fino a che punto vuole giocare la carta di una nuova fase, di un nuovo ciclo risolutivo dei problemi dei cittadini, perché questo, il problema è che si dimentica che questa è la vera grande questione. Appunto, l'economia. E allora, questo anche lui lo deve un po' decidere, perché deve poi aiutare, no? Non si può vivere continuamente di uno spirito reciprocamente provocatorio, però è vero quello che diceva Padellaro, che diceva lei, e cioè che poi alla fine è il PD la chiave di volta, nell'immediato della sì, cosa. Però mi spieghi che c'entra il fatto che, perché non va bene che Enrico Letta se ne vada in abbazia? Tra l'altro pare che sia un'idea di Angela Merkel che gli abbia suggerito lei a fare team building. No, team ma io non è che adesso ho fatto una cosa così un po' così umorale. Io, si ricorda il castello di Gergonza? E come no, Prodi. Lì si riunirono e D'Alema spiegò a Prodi: guarda che non abbiamo vinto le elezioni, cioè le abbiamo vinte numericamente, ma politicamente Berlusconi è ancora una grande forza nel paese, bisogna... E Prodi lo mandò a quel paese, insomma, e si avviarono. E anche la Reggia di Caserta, poi crollò il governo Prodi dopo pochi giorni. Reggia di Caserta non me lo ricordavo. Sì, c'è stato un vertice lì. Padellaro. Sì. Andarono a Caserta. Insomma, le abbazie tutto. Non portano benissimo ai governi. Ecco, sono il luogo più bello forse del mondo, e spiritualmente il più alto, ma non portano bene alla vita dei governi. Comunque no, era solo una cosa morale, fanno benissimo a riunirsi e a parlare tra di loro, però il problema è che devono mettere all'ordine del giorno è quello lì, cioè sul PD, io aggiungerei però appunto questo giudizio di Amato che citavo prima, il PD è veramente, cioè non è una crisi che si risolve con la nomina di uno al vertice del partito, è veramente una crisi esistenziale di identità e si è manifestata, cosa veramente tragica, nella base parlamentare, parlamentare, cioè il PD ha dei gruppi parlamentari che gli hanno impedito di fare sia l'una politica che l'altra, sì, sia di eleggere Marini d'accordo con Berlusconi, sia di eleggere Prodi contro Berlusconi. Tra l'altro oggi Amato significa che in una fase nichilistica Amato, Amato dice che la bocciatura, l'impallinatura di Prodi è una roba inaccettabile, però siamo... Vabbè, quella è ipocrisia da parte di Amato, perché era l'uomo più felice del mondo. Sì, ha detto anche che il prelievo è forzoso, fu un'idea di Goria e fu nato su un equivoco. Quella cosa di Amato che dice la pensione io non c'entro e la do in beneficenza. Il prelievo forzoso è stata un'idea di Goria. Un uomo di Stato non sta lì a giustificarsi. Ma ha detto di peggio, ha detto che al mattino dopo Goria fece cenno di sì con la testa e Amato interpretò questo cenno di sì con la testa come se lui ne avesse parlato con Ciampi, ma era un equivoco perché Ciampi non ne sapeva nulla. E Padellaro è così raccontata oggi ad Aldo Cazzullo sul giornale. È una barzelletta. Certo che è una barzelletta, cioè un prelievo forzoso nato perché Goria faceva sì con la testa e Amato l'ha interpretato come un sì, che un assenso di Ciampi. Detto questo, Padellaro, siamo sempre lì. In tutto questo, quanto pesa invece il PD, l'abbiamo detto, il tema giustizia? Berlusconi tra poco arriva a sentenza, Berlusconi vuole spostare il processo a Brescia, non ce l'ha fatto, non ce l'ha fatta. Questo quanto incide? Ma incide enormemente. In un retroscena non smentito, nei giorni della trattativa, Letta ha raccontato che nel suo incontro con Berlusconi è stato dedicato da Berlusconi quasi completamente alla esposizione dei suoi problemi giudiziari, ma si può anche comprendere che Berlusconi sia ossessionato da delle sentenze, tra l'altro quella una che deve andare, che potrebbe essere confermata alla Cassazione, ha una pena detentiva, quella Mediaset, il caso Rubi, insomma sono anche processi pesanti. Il problema è che questo lo sapevano tutti anche prima, cioè non è che lo scopriamo oggi, e abbiamo un governo, perché poi dobbiamo anche cercare, al di là di queste riunioni che appunto avete detto non portano benissimo nei castelli e nella campagna toscana, il problema è che se questo governo riuscirà a combinare qualcosa, perché questo è il qualcosa sul piano dell'economia, no? Abbiamo il problema degli esodati, abbiamo il problema del rifinanziamento della cassa integrazione straordinaria, insomma abbiamo problemi, il problema del lavoro, non è che intanto i problemi si risolvono da sé, e io ho l'impressione che questo sempre di più sia un governo di persone anche di buona volontà, ma che sia un po' la squadra B, sia un po' la squadra B del PD e sia un po' la squadra B del PDL, mi sembra un governo di visi pallidi. E lo si diceva persone. Qui, quando si manda la squadra di riserva per fare la Coppa Italia, tanto invece qui giochiamo, ci giochiamo la Champions League, voglio dire. Il problema qual è? È che i governi devono avere, per operare bene, i sostegni dei gruppi parlamentari, è evidente, no? E questo governo può fare spogliatoio. Io sono convinto che Letta e Alfano abbiano una sintonia anche generazionale, ma se poi non sono sostenuti in Parlamento è tempo perso. Purtroppo Ferrara parla di generoso tentativo di Napolitano, ma mi sembra che stiamo forse perdendo tempo. Più che generoso, forse subito a nuove elezioni. Forse disperato, dice, più che generoso. Più disperato. Forse disperato. Sì. Però, nuove elezioni, c'è questa legge elettorale sempre che incombe, evidente, che non si sa. Bisognerebbe almeno fare la nuova. Ma anche questa è la domanda, ma Berlusconi a questo punto ha interesse a modificare una legge elettorale, visto che i sondaggi lo danno in vantaggio, lo so che i sondaggi contano per quello che contano. Si fermi su questa domanda, perché l'ultima volta pare di no, però andiamo un attimo alla pubblicità, siamo con Giuliano Ferrara, Antonio Padellaro, ripartiamo da questa domanda, serve, vuole davvero Berlusconi cambiare la legge elettorale? Poi voglio lanciare a Giuliano Ferrara un'idea sul Silvio Berlusconi senatore a vita, dopo ci deve dare una risposta a questo, perché i rumors sono quelli. 24 mattino. Eccoci qui, siamo alle 8:38 minuti, siamo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, e Giuliano Ferrara, direttore del Foglio. Parliamo di attualità politica. Giuliano Ferrara, al quale chiedo allora la questione di Berlusconi, la questione giudiziaria. Poi si ruota sempre lì, Ferrara. Sì, i processi sono ovviamente importanti, perché se fossero processi con una base di oggettività riconosciuta anche dall'imputato, bisognerebbe solo aspettare le sentenze. E così non il problema sono, è che invece l'imputato dice che sono, e l'imputato è un leader politico degli ultimi 20 anni in Italia, di un certo rilievo, sostiene che questi processi gli sono arrivati per colpirlo politicamente, quindi è una cosa gravissima naturalmente. Insomma, non lo so come andrà a finire. Lì la questione è che comunque, per come la vedo io, non esistono scorciatoie, non c'è più la possibilità, che peraltro secondo me non c'è mai stata, di risolvere la cosa politicizzando i processi, scagliando il Parlamento contro i magistrati, non si può. Queste vie ormai sono radicalmente precluse. L'unica cosa possibile è creare una situazione politica da parte di Berlusconi che renda, come dire, obsoleti i processi e che obliteri le condanne come il residuo, il colpo di coda, se saranno condanne, perché poi possono essere anche delle assoluzioni. È stato assolto più di quanto sia stato mai condannato l'imputato Berlusconi, eppure è stato coinvolto in numerosissimi processi. Insomma, bisogna obliterare i processi, non si possono più né bloccare né diciamo affrontare con uno spirito. Naturalmente nel rapporto col paese Berlusconi ha il diritto di fare il suo discorso sulla mala giustizia, diciamo così. Però secondo me non è giusto e non è neanche conveniente per lui travolgere il governo in relazione ai processi. Però è il timore un po' Padellaro, mi sembra di capire che questo sia il timore che sotto traccia incombe sempre, no? Anteporre la questione giudiziaria, anche personale, alle questioni politiche generali, o no, Padellaro? Sì, ma questo è comprensibile. Io credo che c'è stata una fase, voi lo ricorderete, in cui Berlusconi sembrava essersi rassegnato a mettersi da parte, no? A fare un po' il pensionato di lusso della politica, e forse se lo poteva pure permettere, insomma, dal punto di vista proprio delle risorse economiche. E poi è stato richiamato in fretta e furia perché il PDL era un partito, un mese prima delle elezioni, era un partito che è destinato a una sconfitta forse definitiva. Il problema è che Berlusconi è riuscito a salvare il salvabile. Ricordiamo sempre che il PDL ha perso 6 milioni di voti, però adesso Berlusconi è di nuovo là, e quindi il Popolo delle Libertà subisce anch'esso il problema Berlusconi. Attenzione, perché è troppo semplice chiamare Berlusconi quando si tratta, no, di fare la campagna elettorale e poi metterlo, dirgli adesso non servi più. Berlusconi è ingombrante in tutti i sensi, è inutile a questo punto ricordare che l'Andreotti che stiamo commemorando e alcuni stanno celebrando accettò di farsi processare a Palermo, no? Mentre presenziando tutte le udienze, non ha mai accettato neanche il concetto del giusto processo. Ma Berlusconi è così, pensa che a Milano ci siano dei giudici e magistrati politicizzati, e finché non si esce da questa cosa non si ne uscirà mai. Però sono d'accordo con Ferrara nel dire che a questo punto non conviene neanche più a Berlusconi continuare ad agitare questa bandiera della, insomma, non funziona, il paese è stanco. Effettivamente la gente vorrebbe parlare d'altro. Per esempio, mettiamolo senatore a vita, che Ferrara, manca solo questo, dice Padellaro, manca solo questo. Io penso che le onorificenze sono tutte un po' così, insomma, un po' grottesche, diciamo la verità. Lo dico con il massimo rispetto poi per le persone che vengono scelte, alle quali viene attribuita una carica che ha un suo intrinseco prestigio, però certo le onorificenze in una Repubblica Democratica sono un po', insomma, sono il medagliere. Vabbè, però se proprio dovessero fare quest'ultima botta, diciamo, di Medioevo, beh, allora che lo diano un laticlavio a vita a Berlusconi e uno a Scalfari, così chiudiamo la partita. Ah, a me risultava che ne volessero dare uno a lui e uno a Prodi, Berlusconi e Prodi, senatore. Ah, oppure Berlusconi e Prodi, oppure Berlusconi e De Benedetti, sa, Prodi, sì, Prodi è importante, ma insomma il vero nemico di Berlusconi. Dai, Grillo va al 50%, è stato Carlo De Benedetti, così, lo sappiamo, la transazione finanziaria importante è avvenuta con lui, non certo con Prodi. Ferrara, Padellaro dice che così Grillo cosa va al 50%, adesso, perché se mettono Berlusconi e Prodi... Non lo so, Padellaro io lo farei senatore a vita, ma non mi fido delle sue previsioni. che ho capito che non è un gran complimento per Ferrara. No, sì che è un complimento, scherziamo. Padellaro, perché dovrebbe andare al 50% Grillo se fanno Berlusconi? Abbiamo visto tutto, questo secondo me è il minimo, Berlusconi senatore a vita è il minimo. Beh no, io penso questo, che intanto noi dobbiamo tenere conto di un fatto oggettivo, che ci sono dei processi come quello sui diritti Mediaset che prevedono nella sentenza definitiva l'interdizione dei pubblici uffici. Attenzione, non sarebbe soltanto una sentenza, diciamo, con una pena che, diciamo, più o meno pesante, ma questo, diciamo, metterebbe fuori gioco definitivamente Berlusconi. E appunto, ma dico, Napolitano come può con delle sentenze che stanno maturando farlo senatore? A parte questo, ma noi pensiamo che i problemi di cui stiamo parlando, che sono i problemi per cui questo governo è stato messo in piedi, e non stiamo a ripeterli ogni momento, di fronte a questi problemi basta fare Berlusconi senatore a vita, ma insomma la gente veramente avrebbe tutto il diritto di incavolarsi, scusate l'espressione, potrei usarne una peggiore, sul serio. Insomma, se tutto si risolve con Berlusconi e prodigi senatori a vita, beh, la facciamo ridere i polli. Non può essere questa la soluzione. Facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Allora, le 8:47 minuti, ma Giuliano Ferrara, le volevo chiedere questo. Lei quando è stato nominato Enrico Letta ha fatto su un tweet dicendo: lo vedeste al mattino portare i bambini a scuola? No, no, e lei adesso sta facendo quel tono di voce che è esattamente il contrario del mio linguaggio. Ah, beh, io l'ho interpretato così. Io cerco sempre di essere spiritoso, è ovvio che era spiritoso, perché no? Voi lo vedo qui che porta i bambini all'asilo e mi è sembrato carino da vicino di casa di dire... E il mio tono di appunto che, era di dolcezza. Di votare la fiducia, ma era chiaramente un paradosso. Le pare che io voto la fiducia sulla base di come uno porta. Ma no, ma è chiaro, era una battuta. Invece guardi, era scusi, per arrivare a dire uno che appunto... dei difetti della comunicazione contemporanea su Twitter, non ne parliamo, sono da questo punto di vista dei trogloditi, è la mancanza di senso di humor, per cui uno deve sempre scrivere satira. No, perché no, io mi rifiuto, faccio le battute, se uno dice ma davvero è così, se uno non lo capisce che è una battuta sono problemi, ma è chiaro che era una battuta, però visto che appunto ma colgo anche la cosa di precisare, siccome il mio ultimo articolo sul giornale è stato intitolato "Che bella coppia Letta e Alfano", cioè i titoli li fanno le redazioni. Ah, perché non bisogna guardare i testi, non i titoli. No. Sembra che io sono un cretino che dice che Letta e deve fare il presidente del consiglio perché porta i bambini a scuola con delicatezza tenendoli per mano, e che lui e Alfano sono come Simon e Garfunkel. Non è precisamente così, non sono completamente cretino. No, e non sono completamente Simon e Garfunkel, effettivamente. Vabbè, sentiamo Andrea da Roma, qualche ascoltatore. Andrea da Roma, buongiorno. Andrea, che buongiorno. Ne pensa? È solido questo ricordare, buongiorno. Volevo ricordare che dal 2008, dalle politiche 2008 a quelle del 2013, i due partiti, centrodestra e centrosinistra, hanno perso complessivamente 15 milioni di voti fra spin-off e crisi di consenso. Sì. Ora, nessuno di questi partiti in questo momento sembrerebbe in grado di affrontare serenamente delle nuove elezioni, visto che Berlusconi negli ultimi 30 anni sembra essere l'unico che capisca qualcosa di strategia politica, dubito che voglia andare alle elezioni troppo presto prima di aver ricostituito un minimo di consenso. Può darsi che il governo fallisca per il cupio dissolvi del PD, però se esiste ancora un po' di ragionevolezza, il governo dovrebbe avere una vita abbastanza lunga, almeno... Sì, ma lei sta dicendo abbastanza lunga perché sono entrambi deboli per motivi diversi. Però, sono deboli per motivi diversi. Ho capito, ma così che governo, cioè un governo deve essere solido, convinto, cioè il concetto è, Padellaro ci dice Andrea da Roma, cioè il PD che è quasi in disfacimento, e il PDL che, ricordiamo, 3 mesi prima delle elezioni sembrava in disfacimento, ma comunque Berlusconi, secondo Andrea da Roma, non ha poi tutto questo straordinario consenso, magari vincerebbe ma di poco. E quindi due zoppicanti cosa fanno? Vanno avanti un po' così, zoppicando entrambi, sperando di andare dritti, reggendosi spalla contro spalla? Ma io penso che la fotografia è perfetta. Io penso che gli italiani si aspettassero che 3 giorni dopo la formazione del governo, il tempo appunto di mettere a punto dei provvedimenti d'emergenza, Letta, Alfano e i ministri competenti, si aspettavano una conferenza stampa del tipo quella che fece Monti, vi ricordate, con la Fornero che pianse, no? Ora, è vero che quel governo è stato un governo che ha creato molti problemi, più di quanti ne abbia risolti, no? Però quell'atto, no, di presentarsi immediatamente dopo dicendo faremo questo, questo e questo, fu molto apprezzato, perché era il segno di una operatività di cui questo paese ha bisogno. Ma vi rendete conto che adesso, con tutto il rispetto per le abbazie, stiamo ancora a fare spogliatoio, ma sono passati 15 giorni. Sì, io non l'ho capita bene questa mossa, cioè non, magari è una banale mossa, come dire, ritroviamoci, diamo un segnale, no, di unità. Sì, ma non era il caso, il caso di fare appunto, visto che ci sono dei provvedimenti su cui PD e PDL sono completamente d'accordo, sì, perché non è che tutto è in disfacimento. Per esempio, abbiamo citato provvedimenti sulla cassa integrazione. Io credo che anche il Popolo delle Libertà voglia, no? Voglia rifinanziare la cassa integrazione. Anche il problema dell'IMU. Ma voi avete capito in che direzione si va? Si va verso una sospensione definitiva. Si va verso semplicemente, si scoprirà in settimana, ma è un problemuccio l'IMU, cioè in un paese che ha la spesa pubblica di 800 miliardi l'anno, stiamo parlando di 4 miliardi, cioè una cosa politica. Ma non possiamo però, e il governo questo dovrebbe impedirlo con una comunicazione accorta, far pensare esattamente che l'IMU sia il problema centrale, perché di questo parlano tutti i giornali. È vero, è vero, ma è qui la debolezza, non so se Ferrari è d'accordo, è qui la debolezza del governo, che in questo Berlusconi sta imponendo la sua agenda, cioè Ferrara, l'IMU, ma chi se ne frega dell'IMU, io dico, è così un problema a cui pensa tutta Italia appena si sveglia al mattino, eppure sembra il problema dei problemi. No, anche perché il 30% della platea dei contribuenti è escluso dall'IMU, il problema vero è che però è l'unica vera tassa, come dire, che insiste su una cosa che non si può nascondere e colpisce gran parte del ceto medio. Con riflessi notevoli anche sulla propensione poi a consumare, non dico a investire, del ceto medio alto. Ma sono 100 euro l'anno in media, 120 euro. No, cioè, no, in media sono sì 140 euro l'anno, ma si figuri, ma lei mi viene, come dicono a Napoli, viene a nozze, perché io sono un sostenitore da sempre del fatto che si fa della demagogia antifiscale, però non è che si può sottovalutare la questione, perché la casa effettivamamente è una cosa importante. Lì naturalmente si sta discutendo della prima casa, non delle, sì, sì, non certo, di eventuali altre proprietà, si sta discutendo di un regime di esenzioni, di un superamento, però non scordiamoci che su questa base Berlusconi ha fatto la proposta più eversiva, diciamo, anche qui vi prego di prenderla con un po' di senso di humor, perché era perfettamente... Qui si capisce dal tono, qui si può capire dal tono. La proposta più eversiva del mondo, quella di restituire con i soldi, con i soldi suoi. Se vuoi la restituzione, vota Berlusconi, il massimo. Con i soldi suoi, peraltro, ha detto. Sennò, anche con i soldi suoi in casa non ci fossero, esatto, quelli pubblici. Per concludere, fatemi un pronostico, visto che lei Ferrara aveva detto che si poteva votare sotto la nave. No, durerà poco e andrà tutto male, per quella famosa legge per cui se una cosa può andare male va male. La legge di Murphy. Sì, ma quanto poco, cioè quanto e no, quanto non male. Lo so, veramente non lo so, penso che almeno fino alle prossime europee, insomma, un minimo di decenza. Ah, un anno. Dovrebbe lasciare almeno questo minimissimo margine a un governo che poi, insomma, che non ha in questo momento altre alternative che le elezioni. Quindi, poi se trovano questa missione comune e se si decidono a fare una politica nel segno dell'interesse comune del paese, allora forse possono anche fare una cosa più lunga e più stabile, eccetera. Se no va tutto all'aria prima. E Padellaro, lei che pensa? Quando? No, penso che dipende dalle convenienze di Berlusconi, perché il Partito Democratico si è messo in questa splendida situazione, condizione, di dare a Berlusconi la possibilità di staccare la spina quando gli pare e piace. E quindi la vicenda dell'IMU, sono d'accordo che non è così secondaria rispetto agli interessi dei cittadini, mi sembra una meravigliosa, un meraviglioso spunto di campagna elettorale futura. Lo dicevamo all'inizio, quindi lo deciderà Berlusconi, può darsi che le sue convenienze gli consentano di portare avanti, far mandare avanti questo governo ancora qualche mese oppure staccare qualche anno, dipende da lui, deciderà Berlusconi. Grazie a Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, grazie ad Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, ci ritroviamo domattina alle 6.30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.